intercettati, siamo intercettati, intercettati. Tutta la squadra con me, no, no. Quando lo dici stai attento, di solito al giallo qua parliamo in tre. Vogliono sapere se la porti con te. Sono nascosti nel ciel, fra le cimici nelle scale. No, no, no, no. Foto con le nostre foto.